sacchetto la metterei. E poi, nonostante tutto tu lo sai, te la regalerei. Un amore che sia un po' più forte del mio amore per te.